Lo schema di vita. Il dovere fondamentale dell'uomo nel suo rapporto di creatura con il suo creatore è quello di regolare la propria esistenza secondo lo schema di vita indicato da Allah, il Dio. Nel sublime Corano e negli insegnamenti di dottrina e di pratica del profeta vengono proposti all'uomo i modelli di vita attraverso il vissuto dei quali l'uomo realizza la sua umanità e lo scopo della sua esistenza. Il sistema normativo che risulta dalla sintesi organica dei comandamenti contenuti nel sublime Corano e nella precettistica del profeta ha il nome tecnico di Sharia. Destinatari della Sharia sono tutti gli uomini, e poiché dopo il sublime Corano non ci saranno altre rivelazioni e altri profeti, è al sublime Corano e all'insegnamento muhammadico che l'uomo, che voglia vivere autenticamente la sua umanità, deve fare ricorso. Perciò, chiunque, per grazia divina, abbia raggiunto la certezza della indiscutibile veridicità di quanto affermato nel sublime Corano e nell'insegnamento muhammadico, non potrà fare a meno di mettersi in cammino sulla via dell'Islam, che è lo stile di vita che nasce dalla trasformazione in pratica della fede nella provenienza divina del sublime Corano e della missione apostolico-profetica di Muhammad. Gli uomini e le donne che mettono in pratica l'Islam formano la comunità musulmana, il fattore unificante della quale è la comunanza del credo e della pratica di vita. Quando la comunità musulmana raggiunge su un territorio delle dimensioni quantitative e qualitative politicamente rilevanti, essa tende a darsi su quel territorio un'organizzazione politico-giuridico-amministrativa, cioè a dar vita allo Stato islamocratico.